ad alta voce. Paola Pitagora legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Lasciamoli andare e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua, che abbiamo lasciate in una certa stradetta. Agnese aveva procurato ad allontanar l'altra dalla casa di Don Abbondio il più che fosse possibile, e fino a un certo punto la cosa era andata bene. Ma tutto a un tratto la serva si era ricordata dell'uscio rimasto aperto e aveva voluto tornare indietro. Non c'era che ridire. Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto voltar con lei e andarle dietro, cercando però di trattenerla ogni volta che la vedesse riscaldata ben bene nel racconto di quei tali matrimoni andati a monte. Mostrava di darle molta udienza e ogni tanto, per far vedere che stava attenta o per ravviare il cicalio, diceva: sicuro, adesso capisco, va benissimo, è chiara, e poi, e lui, e voi. Ma intanto faceva un altro discorso con se stessa. Saranno usciti a quest'ora o saranno ancora dentro? Che sciocchi che siamo stati tutte e tre a non concertar qualche segnale per avvisarmi quando la cosa fosse riuscita. È stata proprio grossa, ma è fatta. Ora non c'è altro che tener costei a bada più che posso. Alla peggio sarà un po' di tempo perduto. Così a corserelle e a fermatine erano tornate poco distante dalla casa di Don Abbondio, la quale però non vedevano per ragione di quella accantonata. E Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, si era lasciata fermare senza far resistenza, anzi senza avvedersene. Quando tutto a un tratto si sentì venir rimbombando dall'alto nel vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di Don Abbondio: «Aiuto! Aiuto!» «Misericordia! Cos'è stato?» gridò Perpetua e volle correre. «Cosa c'è? Cosa c'è?» disse Agnese, tenendola per la sottana. «Misericordia! Non avete sentito?» replicò quella, svincolandosi. «Cosa c'è? Cosa c'è?» ripeté Agnese, afferrandola per un braccio. «Diavolo d'una donna!» esclamò Perpetua, rispingendola per mettersi in libertà, e prese la rincorsa. Quando più lontano, più acuto, più istantaneo, si sente l'urlo di Menico. «Misericordia!» grida anche Agnese e di galoppo dietro l'altra. Avevano quasi appena alzati i calcagni quando scoccò la campana. Un tocco, e due, e tre, e seguita. Sarebbero stati sproni se quelle ne avessero avuto bisogno. Perpetua arriva un momento prima dell'altra. Mentre vuole spinger l'uscio si spalanca di dentro e sulla soglia compariscono Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia, che, trovata la scala, erano venuti giù saltelloni e, sentendo poi quel terribile scampanio, correvano in furia a mettersi in salvo. «Cosa c'è? Cosa c'è?» domandò Perpetua ansante ai fratelli, che le risposero con un urtone e scantonarono. «E voi? Come? Che fate voi qui?» domandò poscia all'altra coppia quando l'ebbe raffigurata. Ma quelli pure uscirono senza rispondere. Perpetua, per accorrere dove il bisogno era maggiore, non domandò altro, entrò in fretta nell'andito e corse come poteva al buio verso la scala. I due sposi, rimasti promessi, si trovarono in faccia Agnese, che arrivava tutta affannata. «Ah, oh, siete qui?» disse questa, cavando fuori la parola a stento. «Com'è andata? Cos'è la campana? Mi pare d'aver sentito!» a casa!» diceva Renzo, «prima che venga gente!» E s'avviavano. Ma arriva Menico di corsa, li riconosce, li ferma e, ancor tutto tremante, con voce mezza fioca, dice: «Dove andate? Indietro, indietro, per di qua, al convento!» «Sei tu che...» cominciava Agnese. «Cosa c'è d'altro?» domandava Renzo. Lucia, tutta smarrita, taceva e tremava. «C'è il diavolo in casa!» riprese Menico ansante. «Li ho visti io! M'hanno voluto ammazzare!» l'ha detto il padre Cristoforo. «E anche voi, Renzo, ha detto che veniate subito!» «E poi li ho visti io! Provvidenza che vi trovo qui tutti! Vi dirò poi, quando saremo fuori!» Renzo, che era il più in sé di tutti, pensò che di qua o di là conveniva andar subito, prima che la gente accorresse, e che la più sicura era di far ciò che Menico consigliava, anzi comandava, con la forza d'uno spaventato. Per istrada, poi, e fuori del pericolo, si potrebbe domandare al ragazzo una spiegazione più chiara. «Cammina avanti», gli disse. «Andiamo con lui», disse alle donne. Voltarono, si incamminarono in fretta verso la chiesa, attraversarono la piazza, dove per grazia del cielo non c'era ancora anima vivente. Entrarono in una stradetta che era tra la chiesa e la casa di Don Abbondio, al primo buco che videro in una siepe, dentro e via per i campi. Non s'eran forse allontanati un 50 passi quando la gente cominciò ad accorrere sulla piazza e ingrossava ogni momento. Si guardavano in viso gli uni con gli altri, ognuno aveva una domanda da fare, nessuno una risposta da dare. I primi arrivati corsero alla porta della chiesa, era serrata, corsero al campanile di fuori e uno di quelli, messa alla bocca un finestrino, una specie di feritoia, cacciò dentro un «Che diavolo c'è?». Quando Ambrogio sentì una voce conosciuta, lasciò andare la corda e, assicurato dal ronzio, che era corso molto popolo, rispose «Vengo ad aprire!». Si mise in fretta l'arnese che aveva portato sotto il braccio, venne dalla parte di dentro alla porta della chiesa e l'aprì. «Cos'è tutto questo fracasso? Cos'è? Dov'è? Chi è?». «Come chi è?» disse Ambrogio, tenendo con una mano un battente della porta e con l'altra il lembo di quel tale arnese che si era messo così in fretta. «Come? Non lo sapete? Gente in casa del signor curato! Animo, figlioli! Aiuto!». Si voltano tutti a quella casa, vi si avvicinano in folla, guardano in su, stanno in orecchi, tutto quieto. Altri corrono dalla parte dove c'era l'uscio. È chiuso e non par che sia stato toccato. Guardano in su anche loro, non c'è una finestra aperta, non si sente uno zitto. «Chi è là dentro? Uè! Uè! Signor curato! Signor curato!». Don Abbondio, il quale appena accortosi della fuga degli invasori si era ritirato dalla finestra e l'aveva richiusa e che in questo momento stava a bisticciar sottovoce con Perpetua, che l'aveva lasciato solo in quell'imbroglio, dovette, quando si sentì chiamare a voce di popolo, venir di nuovo alla finestra e, visto quel gran soccorso, si pentì d'averlo chiesto. «Cos'è stato? Che le hanno fatto? Chi sono costoro? Dove sono?» gli veniva gridato da 50 voci a un tratto. «Non c'è più nessuno. Vi ringrazio, tornate pure a casa». «Ma chi è stato? Dove sono andati? Che è accaduto?». «Cattiva gente, gente che gira di notte, ma sono fuggiti. Tornate a casa, non c'è più niente. Un'altra volta, figlioli, vi ringrazio del vostro buon cuore». E detto questo, si ritirò e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a brontolare, altri a canzonare, altri a sagrare. Altri si stringevano nelle spalle e se ne andavano. Quando arriva uno tutto trafelato che stentava a formare le parole. Stava costui di casa, quasi di rimpetto alle nostre donne, ed essendosi al rumore affacciato alla finestra, aveva veduto nel cortiletto quello scompiglio dei bravi quando il griso s'affannava a raccoglierli. Quando ebbe ripreso fiato, gridò: «Che fate qui, figlioli? Non è qui il diavolo! È giù in fondo alla strada, alla casa d'Agnese Mondella! Gente armata! Son dentro! Par che vogliono ammazzare un pellegrino! Chissà che diavolo c'è! Che? Che? Che?». E comincia una consulta tumultuosa. «Bisogna andare, bisogna vedere! Quanti sono? Quanti siamo? Chi sono? Il console! Il console!». «Sono qui», risponde il console di mezzo alla folla. «Sono qui, ma bisogna aiutarmi, bisogna ubbidire. Presto, dov'è il sagrestano? Alla campana, alla campana! Presto, uno che corra a Lecco a cercare soccorso. Venite qui tutti!». Chi accorre, chi sguizza tra uomo e uomo e se la batte, il tumulto era grande. Quando arriva un altro che li aveva veduti partire in fretta e grida: «Correte, figliuoli! Ladri o banditi che scappano con un pellegrino, sono già fuori dal paese! Addosso! Addosso!». A questo avviso, senza aspettare gli ordini del capitano, si muovono in massa e giù alla rinfusa per la strada. Di mano in mano che l'esercito s'avanza, qualcheduno di quei dell'avanguardia rallenta il passo, si lascia sopravanzare e si ficca nel corpo della battaglia. Gli ultimi spingono innanzi, lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Le tracce dell'invasione erano fresche e manifeste. L'uscio spalancato, la serratura sconficcata, ma gli invasori erano spariti. Si entra nel cortile, si va all'uscio del terreno, aperto e sconficcato anche quello. Si chiama Agnese! Lucia! Il pellegrino, dov'è il pellegrino? L'avrà sognato Stefano il pellegrino. No, no, l'ha visto anche Carlandrea. Uè, pellegrino! Agnese! Lucia! Nessuno risponde. Le hanno portate via! Ci fu allora di quelli che alzando la voce proposero di inseguire i rapitori, che era un'infamità e sarebbe una vergogna per il paese se ogni birbone potesse a man salva venire a portar via le donne come il nibbio i pulcini da un'aia deserta. Nuova consulta e più tumultuosa, ma uno, e non si seppe mai bene chi fosse stato, gettò nella brigata una voce che Agnese e Lucia s'era messe in salvo in una casa. La voce corse rapidamente, ottenne credenza. Non si parlò più di dar la caccia ai fuggitivi e la brigata si sparpagliò andando ognuno a casa sua. Era un bisbiglio, uno strepito, un picchiare e un aprir d'usci, un apparire e uno sparir di lucerne, un interrogare di donne dalle finestre, un rispondere dalla strada. Tornata questa deserta e silenziosa, i discorsi continuarono nelle case e morirono negli sbadigli, per ricominciare poi la mattina. Fatti però non ce ne fu altri, se non che quella medesima mattina il console, stando nel suo campo col mento in una mano e il gomito appoggiato sul manico della vanga mezza ficcata nel terreno e con un piede sul vangile, stando, dico, a speculare tra sé sui misteri della notte passata e sulla ragion composta di ciò che gli toccasse a fare e di ciò che gli convenisse fare, vide venirsi incontro due uomini d'assai gagliarda presenza, chiomati come due erede franchi della prima razza e somigliantissimi nel resto a quei due che 5 giorni prima avevano affrontato Don Abbondio, seppur non erano quei medesimi. Costoro, con un fare ancor men cerimonioso, intimarono al console che guardasse bene di non far deposizione al podestà dell'accaduto, di non rispondere il vero, caso che ne venisse interrogato, di non ciarlare, di non fomentar le ciarle dei villani, per quanto aveva cara la speranza di morir di malattia. I nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto, in silenzio, voltandosi ora l'uno ora l'altro a guardare se nessuno li inseguiva, tutti in affanno per la fatica della fuga, per il batticuore e per la sospensione in cui erano stati, per il dolore della cattiva riuscita, per l'apprensione confusa del nuovo oscuro pericolo. E ancor più in affanno li teneva l'incalzare continuo di quei rintocchi, i quali, quanto per l'allontanarsi venivano più fiochi e ottusi, tanto pareva che prendessero un non so che di più lugubre e sinistro. Finalmente cessarono. I fuggiaschi allora, trovandosi in un campo disabitato e non sentendo un alito all'intorno, rallentarono il passo e fu la prima Agnese che, ripreso fiato, ruppe il silenzio domandando a Renzo come era andata, domandando a Menico cosa fosse quel diavolo in casa. Renzo raccontò brevemente la sua trista storia e tutte e tre si voltarono al fanciullo, il quale riferì più espressamente l'avviso del padre e raccontò quello che egli stesso aveva veduto e rischiato e che purtroppo confermava l'avviso. Gli ascoltatori compresero più di quel che Menico avesse saputo dire. A quella scoperta si sentirono rabbrividire. Si fermarono tutte e tre a un tratto, si guardarono in viso l'un con l'altro, spaventati, e subito, con un movimento unanime, tutte e tre posero una mano, chi sul capo, chi sulle spalle del ragazzo, come per accarezzarlo, per ringraziarlo tacitamente, che fosse stato per loro un angelo tutelare, per dimostrargli la compassione che sentivano dell'angoscia da lui sofferta e del pericolo corso per la loro salvezza. E quasi per chiedergliene scusa. Ora torna a casa perché i tuoi non abbiano a star più in pena per te, gli disse Agnese, e rammentandosi delle due parpagliole promesse se ne levò 4 di tasca e gliele diede, aggiungendo: basta, prega il Signore che ci rivediamo presto. E allora Renzo gli diede una berlinga nuova e gli raccomandò molto di non dir nulla della commissione avuta dal frate. Lucia l'accarezzò di nuovo, lo salutò con voce accorata. Il ragazzo li salutò tutti intenerito e tornò indietro. Quelli ripresero la loro strada, tutti pensierosi, le donne innanzi e Renzo dietro come per guardia. Lucia stava stretta al braccio della madre e scansava dolcemente e con destrezza l'aiuto che il giovane le offriva nei passi malagevoli di quel viaggio fuori di strada, vergognosa in sé, anche in un tale turbamento, d'essere già stata tanto sola con lui e tanto familiarmente quando s'aspettava di divenir sua moglie tra pochi momenti. Ora, svanito così dolorosamente quel sogno, si pentiva d'essere andata troppo avanti e, tra tante cagioni di tremare, tremava anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male, per quel pudore che ignora se stesso, somigliante alla paura del fanciullo che trema nelle tenebre senza saper di che. «E la casa?» disse a un tratto Agnese. Ma per quanto la domanda fosse importante, nessuno rispose, perché nessuno poteva darle una risposta soddisfacente. Continuarono in silenzio la loro strada e poco dopo sboccarono finalmente sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento. Renzo s'affacciò alla porta e la sospinse bel bello. La porta di fatto s'aprì e la luna, entrando per lo spiraglio, illuminò la faccia pallida e la barba d'argento del padre Cristoforo, che stava quivi ritto in aspettativa. Visto che non ci mancava nessuno, «Dio sia benedetto», disse, e fece il loro cenno che entrassero. Accanto a lui stava un altro cappuccino ed era il laico sagrestano che egli, con preghiere e con ragioni, aveva persuaso a vegliar con lui, a lasciar socchiusa la porta e a starci in sentinella per accogliere quei poveri minacciati. E non si richiedeva meno dell'autorità del padre e della sua fama di santo per ottenere dal laico una condiscendenza incomoda, pericolosa e irregolare. Entrati che furono, il padre Cristoforo riaccostò la porta adagio adagio. Allora il sagrestano non poté più reggere e, chiamato il padre da una parte, gli andava sussurrando all'orecchio: «Ma padre, padre, di notte in chiesa, con donne, chiudere la regola, ma padre!» e tentennava la testa. Mentre diceva stentatamente quelle parole, «Vedete un poco», pensava il padre Cristoforo, «se fosse un masnadiero inseguito, fra Fazio non gli farebbe una difficoltà al mondo. È una povera innocente che scappa dagli artigli del lupo. Omnia munda mundis», disse poi, voltandosi tutto a un tratto a Fra Fazio e dimenticando che questo non intendeva il latino. Ma una tale dimenticanza fu appunto quella che fece l'effetto. Se il padre si fosse messo a questionare con ragioni, a Fra Fazio non sarebbero mancate altre ragioni da opporre, e sa il cielo quando e come la cosa sarebbe finita. Ma al sentir quelle parole, gravide d'un senso misterioso e proferite così risolutamente, gli parve che in quelle dovesse contenersi la soluzione di tutti i suoi dubbi. S'acquietò e disse: «Basta, lei ne sa più di me». «Fidatevi pure», rispose il padre Cristoforo, e all'incerto chiarore della lampada che ardeva davanti all'altare s'accostò ai ricoverati, i quali stavano sospesi aspettando, e disse loro: «Figlioli, ringraziate il Signore che va scampati da un gran pericolo, forse in questo momento». E qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accennare dal piccol messo, giacché non sospettava che se ne sapessero più di lui e supponeva che Menico li avesse trovati tranquilli in casa prima che arrivassero i malandrini. Nessuno lo disingannò, nemmeno Lucia, la quale però sentiva un rimorso segreto d'una tale dissimulazione con un tal uomo. Ma era la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. «Dopo di ciò», continuò egli, «vedete bene, figlioli, che ora questo paese non è sicuro per voi. È il vostro, ci siete nati, non avete fatto male a nessuno. Ma Dio vuol così, è una prova. Figlioli, sopportatela con pazienza, con fiducia, senza odio, e siate sicuri che verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciò che ora accade. Io ho pensato a trovarvi un rifugio per questi primi momenti. Presto, io spero, potrete ritornare sicuri a casa vostra. A ogni modo, Dio vi provvederà per il vostro meglio. E io certo mi studierò di non mancare alla grazia che mi fa, scegliendomi per suo ministro nel servizio di voi, suoi poveri, cari, tribolati. Voi», continuò volgendosi alle due donne, «potrete fermarvi a... Là sarete abbastanza fuori d'ogni pericolo e nello stesso tempo non troppo lontane da casa vostra. Cercate del nostro convento, fate chiamare il padre guardiano, dategli questa lettera. Sarà per voi un altro fra Cristoforo. E anche tu, il mio Renzo, anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua. Porta questa lettera al padre Bonaventura da Lodi, nel nostro convento di Porta Orientale in Milano. Egli ti farà da padre, ti guiderà, ti troverà del lavoro, perfinché tu non possa tornare a vivere qui tranquillamente. Andate alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione. È un torrente a pochi passi da Pescarenico. Lì vedrete un battello fermo, direte barca. Vi sarà domandato per chi, rispondete San Francesco. La barca vi riceverà, vi trasporterà all'altra riva, dove troverete un baroccio che vi condurrà addirittura fino a... Chi domandasse come fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione quei mezzi di trasporto per acqua e per terra, farebbe vedere di non conoscere qual fosse il potere d'un cappuccino tenuto in concetto di santo. Restava da pensare alla custodia delle case. Il padre ne ricevette le chiavi, incaricandosi di consegnarle a quelli che Renzo e Agnese gli indicarono. Quest'ultima, levandosi di tasca la sua, mise un gran sospiro, pensando che in quel momento la casa era aperta, che c'era stato il diavolo e chissà cosa ci rimaneva da custodire. «Prima che partiate», disse il padre, «preghiamo tutti insieme il Signore perché sia con voi in codesto viaggio e sempre, e soprattutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò che egli ha voluto». Così dicendo si inginocchiò nel mezzo della chiesa e tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il padre, con voce sommessa ma distinta, articolò queste parole: «Noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore per lui. Ne ha tanto bisogno. Noi, nella nostra tribolazione, abbiamo questo conforto, che siamo nella strada dove ci avete messi voi. Possiamo offrirvi i nostri guai e diventano un guadagno. Ma lui è vostro nemico, disgraziato, compete con voi. Abbiate pietà di lui, o Signore, toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi». Alzatosi poi come in fretta, disse: «Via, figlioli, non c'è tempo da perdere. Dio vi guardi, il suo angelo vi accompagni. Andate». E mentre si avviavano con quella commozione che non trova parole e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse con voce alterata: «Il cuor mi dice che ci rivedremo presto». Certo, il cuore. Chi gli dà retta ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il cuore? Appena un poco di quello che è già accaduto. Senza aspettare risposta, fra Cristoforo andò verso la sagrestia. I viaggiatori uscirono di chiesa e fra Fazio chiuse la porta, dando loro un addio con la voce alterata anche lui. Essi s'avviarono zitti zitti alla riva che era stata loro indicata, videro il battello pronto e, data e barattata la parola, c'entrarono. Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, se ne staccò. Afferrato poi l'altro remo e vogando a due braccia, prese il largo verso la spiaggia opposta. Non tirava un alito di vento. Il lago giaceva liscio e piano e sarebbe parso immobile se non fosse stato il tremolare e l'ondeggiar leggero della luna che vi si specchiava da mezzo il cielo. S'udiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del Lido, il gorgoglio più lontano dell'acqua rotta tra le pile del ponte e il tonfo misurato di quei due remi che tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano a un colpo grondanti e si rituffavano. L'onda, segata dalla barca, riunendosi dietro la poppa, segnava una striscia increspata che si andava allontanando dal Lido. I passeggeri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti e il paese rischiarato dalla luna e variato qua e là di grand'ombre. Si distinguevano i villaggi, le case, le capanne. Il palazzotto di Don Rodrigo, con la sua torre piatta, elevato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre in mezzo a una compagnia d'addormentati, vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vide e rabbrividì. Scese con l'occhio giù per la china fino al suo paesello. Guardò fisso all'estremità, scoprì la sua casetta, scoprì la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile, scoprì la finestra della sua camera. E seduta com'era nel fondo della barca, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte come per dormire e pianse segretamente. Paola Pitagora ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.